aria secca il vento di novembre, mentre plasmi il tuo destino con il gioco delle ombre. La tua vita, il tuo vissuto e la tua storia, è tutto già passato e diventato parte di memoria. Tu mi insegni che non c'è rosa senza spine, che non c'è e non esiste inizio senza fine. Non cercarmi, tanto io t'aspetto e mi schiaccio.